Palla Spicchi di Dario Ricci. Eccoci qua, buonasera, formazione di Pallaspicchi al completo con Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia e poi ci siete voi, 349-238-6666 per i vostri sms. Ci regaliamo una mezz'oretta di basket in questa giornata in cui Milano è capitale, perché fra pochissimo comincia il derby Milan-Inter, ma finora lo spettacolo è arrivato dal Forum di Assago. Protagonisti i Celtics, i Boston Celtics, che hanno, diciamo, anche, usiamo questa parola, va, asfaltato l'Olimpia Milano, le A7 Emporio Armani, 105-75, tanto spettacolo, bel pubblico, poca partita direi, perché primo quarto 34-31, poi i Celtics che allungano con un parziale di 21-11, 26-17 il parziale del terzo periodo, nell'ultimo quarto Milano prima si becca un parzialone, poi riesce a contenere i danni fino al 105-75, arriva un trentello da parte di Boston che insomma ristabilisce un po' le gerarchie dopo quella che era stata la sconfitta a sorpresa di due giorni fa a Istanbul contro il Fenerbahce di Simone Pianigiani. Il tabellino: 14 punti Paul Pierce, 5 su 6 totale al tiro, di cui 1 su 2 nelle triple, 17 per Rajon Rondo con un 1 su 1 nelle triple e un 7 su 10 totale, 15 punti dei quali arrivano nel primo periodo, 6 gli assist, ma non è una sorpresa per il play dei Celtics. E poi 17 punti anche per Jeff Green, che si preannuncia essere l'arma in più di Boston quest'anno dopo essere stato appiedato lo scorso anno causa problemi cardiaci. 11 punti per Courtney Lee, altrettanti per Brandon Bass, un Boston che ha dominato a rimbalzi 54-35. Per quanto riguarda Milano, 15 punti per Burussis, che ha fatto bottino anche a rimbalzo, 14. 11 punti per Malik Hailstone e Bene Stipcevic nel finale con 7 punti, 2 triple, l'ultima proprio sulla sirena da arrotondare il trentello, e poi 10 punti per Hendrix. E allora andiamo subito al Forum di Assago. Roberto Nardella, che effetto ha fatto questi Boston? Direi un po' pesante questo trentello, ma aspettavo qualcosa di meglio. Roberto, tu che dici? Allora, buona serata anche da parte mia, tutti gli amici di Radio 24 qui dal Forum di Assago. Stavate parlando giustamente anche voi da studio del risultato finale. Io sono in compagnia di Flavio Portaluppi, general manager dell'Olimpia. Il risultato finale conta, però in queste partite, Flavio, forse fino a un certo punto è importante magari anche guardare questa cornice di pubblico che Milano, intesa come città e come squadra, forse merita. Sicuramente è un evento molto importante. Come dicevi giustamente bene tu, non riguarda solo il risultato finale di una partita, è una manifestazione che dà grandissima visibilità alla nostra società, sicuramente a NBA, ad Eurolega, per cui l'importante è parteciparci. Poi dopo, se riuscissimo anche a giocare meglio di come abbiamo fatto stasera, ottenere un risultato migliore, sarebbe comunque più soddisfacente. Ecco, parlando sempre di partite, ce ne sarà una decisamente più importante venerdì, visto che per Milano inizia l'avventura in Eurolega. Sicuramente questa è stata una tappa, questa di stasera, di avvicinamento molto importante, perché comunque la fisicità che hanno messo stasera i Celtics è sicuramente un primo passo e ci farà capire il clima che incontreremo con altri livelli, con altre squadre, però il clima dell'Eurolega è sicuramente molto più fisico rispetto a quello del campionato italiano e di conseguenza è un passo di avvicinamento importante. L'Efes, la prima tappa di un girone sicuramente difficile. Penso che fra 4-5 giorni saremo sicuramente più pronti di quanto non abbiamo mostrato questa sera. Allora, io ringrazierei Flavio Portaluppi, lo concederei se non ci sono altre domande da studio. Grazie Roberto, ti chiedo invece una tua valutazione su questi Celtics. Chiaramente lavori in corso, ma che effetto fanno da vicino? Beh, decisamente un bel effetto. Eravamo qui al Forum anche quando arrivarono i New York Knicks, in quel caso l'atmosfera era un po' diversa perché c'era Danilo Gallinari, che qui al Forum dovrebbero conoscere abbastanza bene, però è chiaro che poi quando in questo tipo di partite, come diceva anche giustamente Portaluppi, si riescono a portare dei giocatori che hanno fatto e stanno facendo e faranno probabilmente la storia dell'NBA, come ad esempio Garnett, Tirs, Rondo, chiaramente non li scopro nemmeno io, è tutta un'atmosfera particolare, una curiosità, forse non dovrei raccontarvela, però dicela, lo facciamo dicela. Lo stesso prima della partita, parlando, scambiando due chiacchiere con Alessandro Gentile, non era probabilmente contentissimo del fatto che c'erano più magliette dei Boston Celtics che dell'Olimpia a Milano, così è, il basket NBA tira più di quello italiano, però erano anche comunque parecchi i tifosi di Milano e si sono anche arrabbiati per qualche fischio. Speriamo poi, chiaramente, come diciamo anche sempre con Porto Lupi, di rivederli al Forum anche nelle prossime gare, quando ci sarà Milano in campo contro l'avversario, non tagliate NBA. Infatti, diritto di fischiare, perché Milano è una platea esigente, ma insomma andate al Forum pure quando c'è l'Eurolega, perché lì i due punti pesano e anche la cornice è importante. Allora, grazie a Roberto Nardella dal Forum. Seguendo il filo rosso dei Celtics, che nel 2007 a Roma costruirono la loro pre-season che li portò poi al titolo, andrei proprio nella capitale, dove si sta giocando da qualche minuto un sugoso Roma-Cantù, ultima gara posticipo di questa seconda di campionato. Fabrizio Fabbri, palla 2 già sollevata da qualche minuto, aggiornamento. Passata la metà del primo quarto, Roma in vantaggio 6-5, la Virtus ha sorpreso con il quintetto iniziale perché non è partito Taylor, in playmaker è partito Phil Goss, con Jones a giocare da esterno accanto a Datome, Cheats e Lorenz sotto canestro. Resta per il momento il vantaggio di 6-5 per Roma, una partita a ritmi alti ma si sta segnando poco, però una partita molto fisica. Per il momento sono cominciate le prime rotazioni, i primi campi in campo adesso. Jordan Taylor per Roma, che ha sostituito proprio Phil Goss, Ade Dagunduro per Jones, dall'altra parte in campo Aradori, non era partito in quintetto. Ripeto, vantaggio 6-5 per Roma quando il cronometro dice 4-25 dal termine ed è la Virtus Roma in attacco. Situazione d'attacco che vi descriviamo prima di ritare la linea allo studio, è proprio Jordan Taylor ad andare a segnare il più 3 per Roma dall'angolo. 8-5 per Roma, 4-16 alla fine. Ripasso la linea allo studio. Grazie, perfetto Fabrizio, resta lì che ti rifacciamo uno squillo per altri aggiornamenti. Oggi tempo però anche di Lega 2, non saranno i Boston Celtics, ma qua i due punti sono in palio e quindi parte il campionato. Subito i risultati degli anticipi: Pistoia che batte Ferentino 86-66, Trento che supera battuta in casa da Barcellona 72-81, poi Trieste Imola 74-64, Capo d'Orlando Scafati 65-72, Napoli che supera Verona 86-69 nella gara che segna il ritorno nel basket che conta dei partenopei, e adesso abbiamo anche una sorpresa in caldo. Veroli sconfitta in casa da Forlì 77-74, Iesi Brescia 73-58, Bologna che passa a Casale Monferrato 61-60, e tornano quelle sconfitte di un punto che hanno condannato l'anno scorso Casale Monferrato alla retrocessione dalla Serie A. Allora, dicevamo, subito a Napoli, perché salutiamo questo ritorno di Napoli nel basket che conta con Carmelo Prestisimone. Direi successo netto, Carmelo, non si poteva ripartire nel modo migliore. Buonasera. Buonasera Dario, sì, successo netto del nuovo Napoli Basket che batte la Tezenis Verona 86-69, un ritorno felice quello del nuovo Napoli Basket tra i professionisti. Io sono con due ospiti, alla mia destra ho Maurizio Bartocci, il coach del nuovo Napoli Basket che ha guidato e diretto, insomma, negli ultimi anni il Napoli Basket di Maione, insomma, con ottimi risultati, è stato l'assistente di Piero Cucchi, di Andrea Mazzon. Alla mia sinistra ho il GM Beppe Liguori. Io direi subito di dire a Maurizio, domandare a Maurizio Bartocci, appunto, un successo, Maurizio, straordinario, con un Allegretti che oggi veramente è stato fenomenale, 27 punti, 4 su 7 da 2, 6 su 8 da 3 punti, 28 di valutazione, in formato davvero nazionale, potrebbe tornare utile anche per Pianigiani. Ma sicuramente, buonasera a tutti, prima di tutto sicuramente abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra importante, forte, profonda, di grandissima qualità. Abbiamo messo cuore, energia e anima, queste sono le nostre caratteristiche. L'atteggiamento della squadra che ha come primo obiettivo quello della salvezza e quello quindi di combattere su ogni partita. Stasera l'abbiamo fatto, siamo riusciti a vincere una partita difficilissima, merito di tutti i ragazzi, al di là dei singoli, ma merito della squadra e del gruppo. Obiettivi? Sempre quello di salvarci e quello di arrivare a una salvezza tranquilla il più presto possibile. Con Peppe Liguori, il general manager, invece sulla parte gestionale, ecco, sulla parte gestionale finanziaria della società, come stanno le cose? Il basket attraverso un momento di crisi, Napoli che ha vissuto anni bui, ricordiamo il fallimento di Maione, il flop di Papalia, oggi qual è lo stato di salute finanziaria del club? Ma certamente risente della crisi che attanaglia non solo il mondo della pallacanestro, ma la crisi che attanaglia tutto il mondo dell'economia italiana e internazionale. Abbiamo buone trattative avviate con un main sponsor che quindi potrebbe dare potremmo dare presto l'annuncio di questo abbinamento con un marchio nazionale. È chiaro che stiamo lavorando, non è facile, è un periodo di crisi, ma credo che il gruppo, la squadra, come sta lavorando la squadra, ci sia di aiuto nel reperire altre risorse, in quanto già la prima partita un pubblico abbastanza numeroso ci fa ben sperare per il futuro. Eccoci qua ancora insieme, vi ricordo 349-238-6666, c'è chi si lamenta per il prezzo dei biglietti dell'Eurolega, visto il nostro invito ad andare al forum o a Siena a seguire le partite. Beh, insomma, è chiaro, questo è un tasto dolente, abbiamo visto quanti problemi ha creato anche nell'avvicinamento al derby di calcio, figurarsi nell'Eurolega infrasettimanale di basket. Beh, a proposito di basket giocato, invece tornerei a Roma, altro aggiornamento flash, Roma Cantù, Fabrizio Fabbri. Primo vantaggio per Cantù con la tripla di Jonathan Tapu. Roma adesso in attacco con Gani Laval, palla persa per infrazione di passi. Dicevamo, il primo vantaggio per Cantù è arrivato a 1.40 dal termine del primo quarto, partita equilibratissima. Roma ha raggiunto il massimo vantaggio di più 4 sul 12-8 con due tiri liberi di Tatome che avevano portato la sua striscia aperta a 12 su 12 dopo il 10 su 10 di Pesaro, poi un nuovo giro in lunetta per Tatome, un 1 su 2, quindi interrotta la sua striscia, però partita equilibratissima, gradevole, qualche errore di troppo. Adesso va a ampliare il proprio vantaggio con una prepotentissima schiacciata di Taius. Cantù, 16-13 per Cantù, 1-10 dal termine del primo quarto. In campo per Roma Tercole, Taylor, Laval, Datome e Laurent, dall'altra parte Aradori, Smith, Marco Sbili, Taius e Brooks. Cantù ora può correre in contropiede e ampliare ancora il proprio vantaggio con Jonathan Tabu. C'è l'errore, il vantaggio è fermo sul 16-13, 49 secondi al termine del primo quarto. Linea allo studio. Grazie Fabrizio Fabbri. Rimaniamo in tema di campionato, perché ieri abbiamo visto vittorie di Sassari, Caserta, Venezia, Pesaro e soprattutto di Varese, ancora in battuta tra precampionato e stagione regolare. Stefano Valenti, ben trovato. Due giornate, ma qualcosa... Anzi no, è caduto Stefano, è caduto nel contropiede. Beh, dicevamo, qualcosina questo campionato sta cominciando a dirla, a partire dalle difficoltà di Milano, e difficoltà forse in parte confermate anche oggi contro i Celtics. A me questo trentello è un po' troppo pesante, ma vabbè, abbiamo sentito anche Flavio Portaluppi che ci ha ricordato quanto invece la partita di stasera aveva tutt'altro valore. Però i gomiti dei Celtics sono stato un prezioso insegnamento sulla strada verso l'Eurolega, e soprattutto quel divario a rimbalzo ha dato bene l'idea di quello che aspetta Milano in questa stagione. Dicevamo di una giornata che ha riservato le vittorie fuori casa importanti di Pesaro e Sassari. Pesaro che è passato 82-78 a Biella, mentre Sassari ha vinto a Montegranaro 85-79, quindi vittorie che lanciano Sassari in testa alla classifica insieme a Varese, Bologna e Siena a 4 punti, quella Siena che è stata sconfitta proprio poche ore fa di fatto a San Antonio, anche per Siena Siena un bel trentello. Eccolo qua, ritrovato Stefano Valenti. Allora Stefano, dicevamo, qualcosa sta dicendo questo campionato, e lo sta dicendo anche il derby di Milano, perché l'Inter in questo istante è passata in vantaggio con un colpo di testa di Samuel su un'uscita sbagliata di Abbiati. Quindi Milan 0, Inter 1, Samuel il marcatore. Tornando al basket, Stefano, questa Varese non la ferma quasi nessuno finora. Per ora nessuno, perché tra precampionato e campionato la squadra di Vitucci ha incassato la 12ª vittoria consecutiva, quindi diventerà ormai materia di interesse per la SNAI, credo che la partita di Varese potrebbe essere anche quotata. No, assolutamente vero, una partita che poi Varese ha vinto nel secondo tempo allungando con un break pesantissimo. Credo che, considerando che queste due vittorie sono arrivate comunque faticando, perché anche a Brindisi era stata la stessa storia, quindi dovendo recuperare nel punteggio per poi vincere, credo che dietro ci sia anche grande fiducia, e probabilmente questa serie di vittorie anche in prestagione, quando si dice che magari quei risultati contano fino a un certo punto, invece evidentemente quella serie di vittorie ha dato grande fiducia, e in campionato la squadra di Vitucci sta mettendo questa fiducia, dimostrandosi appunto capace di vincere anche partite che appunto la vedono sotto nel punteggio. Ieri hai visto Biella Pesaro e Caserta Cremona, sfide salvezza, o da questo poker può uscire qualcosa di più? No, per ora la giornata numero 2 sono assolutamente sfide salvezza, perché è questo l'obiettivo delle quattro squadre delle quali stiamo parlando. Credo che la nota di interesse sia che sono stati i giocatori italiani a decidere queste partite. Biella ha perso anche perché manca di Matteo Soragna, cioè il suo capitano, che purtroppo ha avuto una nuova ricaduta all'altra spalla, non quella operata, sì. E probabilmente resterà fuori ancora per un mese e mezzo. E quell'italiano protagonista è stato Andrea Traini, 20 anni, un giocatore sul quale Pesaro, oltre ad averlo costruito in casa, comunque aveva già dato spazio e fiducia facendolo debuttare in Serie A. La grande differenza è che Traini è stato decisivo per Ticchi per vincere questa partita, e quindi un salto di qualità non da poco, e forse la chiave è stato il quinto fallo del playmaker Hamilton, che ha giocato una partita disastrosa, e il fatto che, come dire, si sono rovesciati i ruoli. Hamilton ha concesso a Traini la panchina quando Traini aveva 4 falli, quando è uscito Hamilton è rientrato Traini, Pesaro ha ripreso saldamente la partita in mano, quindi bravo lui. Nella partita di Caserta, italiani protagonisti, non giovani stavolta, perché Cremona era schizzata via più 15 con un primo quarto praticamente perfetto, e qui la svolta l'ha data Andrea Michelori, che è rientrato a Caserta dopo 2 anni di panchina a Siena, e Mordente, che è l'altra novità italiana di Caserta, sì. Sono stati loro due che hanno rimesso in corsia la Juve Caserta quando la barca stava affondando, e quindi sono stati loro che hanno generato di fatto la rimonta e poi alla fine la vittoria di Caserta, che è una vittoria importante, a Caserta con diversi problemi fisici, mentre quelli di Cremona sono che per 2 partite, anche qui ben giocate per almeno metà del tempo, poi l'ultimo quarto Cremona pare non riesca proprio a giocarlo. Quello che era già successo con la Virtus è successo anche a Cremona. Assolutamente, e anche con Caserta. Assolutamente sì, squadra ancora da amalgamare, lavoro intenso per coach Caia. Grazie Stefano, e allora chiudiamo un paio di minuti col nostro Carlo Genta. Carlo, hai scelto i Celtics o ti stai godendo il derby? Oppure una pizza in famiglia? Cose. Ah, tutte e due, pensavo... Tutte e due le cose, Dario, ma anche perché non riesco a darmi pace per... l'impossibilità di dividere temporalmente due grandi eventi. Bravo, per bravo. Una Milano che aveva bisogno di un antidepressivo, hanno sovrapposto due eventi, e dunque l'unico modo per vederli tutti e due è guardarli in televisione, cosa sì. Che sto facendo. Ci hanno un po' costretto, noi che invece nella nostra generazione, che pure non siamo poi così stagionati, eravamo abituati a vederci la partita al palazzetto o allo stadio e correre subito allo stadio o al palazzetto. Niente da fare, inchiodati alla TV se si vuol vedere tutto, e queste sono le regole nuove. Senti, questa Milano con i Celtics che effetto ti ha fatto? Io secondo me, lo ripeto dall'inizio partita, per quel poco che conta, 30 per come sono arrivati sono troppo. Sì, ma il discorso non è tanto la partita di oggi quanto l'impressione che mi ha lasciato la differenza tra il Fenerbahce di Simone Pianigiani e Romain Sato e tutti gli altri, e Bomb e Caleb e questa Milano, insomma c'è tanta distanza, c'è tanta distanza in chiave Eurolega tra le due squadre. E insomma, la partita di oggi è stata una festa, quella di Istanbul è stata una partita. Eh sì, quindi, cioè... quindi l'impressione è quella, più che cioè, è un'impressione a distanza di due giorni. Certo, c'è ancora tanto da lavorare, Carlo. Tempo finito purtroppo e non possiamo concedersi sui supplementari. Allora grazie a Carlo Genta, Roberto Scattritti in regia e Giorgio De Luca in redazione. Io resto qui che vi racconto anche un po' del derby di Milano.